Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Bentrovati a Il bene di tutti, parliamone. Sono Andrea Canton. Ci concediamo questo spazio per riflettere sui grossi temi dell'economia, della politica e della società senza fretta, analizzandoli con calma alla luce della dottrina sociale della Chiesa, cioè il Vangelo applicato all'agorà e alla piazza pubblica. In epoca di spread indiciazionari, la qualità della vita viene misurata in numeri. C'è chi è arrivato a mettere in discussione 300 anni di teorie economiche, secondo le quali un punto in più vuol dire crescita, un punto in meno vuol dire recessione. I fautori della teoria della decrescita felice insistono sul fatto che la qualità della vita e il benessere non dipendono dai consumi o dal peso della busta paga. La decrescita felice propone un calo nei consumi e un calo nelle esigenze, nel fabbisogno energetico, per produrre meno, vivere più felici e conservare questo pianeta più a lungo. Eppure la Chiesa, negli anni della crescita, i favolosi anni 60, ha cercato persino di dare una definizione di progresso. E l'enciclica Populorum Progressio è stata concepita proprio per questo. Un'enciclica che sarà poi ripresa da Papa Benedetto XVI nella Caritas in Veritate del 2009, di cui leggiamo un breve stralcio. Dalla Caritas in Veritate di Benedetto XVI. Nella Populorum Progressio, Paolo VI ha voluto dirci, prima di tutto, che il progresso è, nella sua scaturigine e nella sua essenza, una vocazione. Nel disegno di Dio, ogni uomo è chiamato a uno sviluppo, perché ogni vita è vocazione. È proprio questo fatto a legittimare l'intervento della Chiesa nelle problematiche dello sviluppo. Se esso riguardasse solo aspetti tecnici della vita dell'uomo e non il senso del suo camminare nella storia assieme agli altri suoi fratelli, né l'individuazione della meta di tale cammino, la Chiesa non avrebbe titolo per parlarne. Paolo VI, come già Leone XIII nella Rerum Novarum, era consapevole di assolvere un dovere proprio del suo ufficio, proiettando la luce del Vangelo sulle questioni sociali del suo tempo. Dire che lo sviluppo è vocazione equivale a riconoscere, da una parte, che esso nasce da un appello trascendente e, dall'altra, che è incapace di darsi da sé il proprio significato ultimo. Siamo qui con Don Marco Cagol, che ricordo è delegato alla pastorale sociale del lavoro della Diocesi di Padova. Salve a tutti. Che ci dice Don Marco di questo brano del Pontefice? Sì, credo che sia una risposta un po' indiretta alle cose che dicevi introducendo la trasmissione, e cioè ci dà una definizione di quello che è lo sviluppo. Lo sviluppo è qualcosa appunto che riguarda la persona umana, e Benedetto XVI, in sintonia con Paolo VI nella Populorum Progressio, lo definisce come vocazione, cioè l'uomo è chiamato allo sviluppo. Ma sviluppo non va inteso semplicemente come sviluppo materiale, sviluppo economico, sviluppo di ricchezza, ma sviluppo integrale. Questa è la parola, diciamo così, magica con cui la Caritas in Veritate definisce lo sviluppo. Cioè l'uomo è chiamato proprio a crescere in tutte le sue dimensioni, raccolte attorno alla dimensione spirituale, cioè alla dimensione interiore, la dimensione che lo mette in relazione con gli altri uomini, in relazione con Dio. Alcune altre dimensioni devono svilupparsi in quanto sono strumento, ecco, per questo sviluppo, per cui quella economica è uno strumento che non può, diciamo così, non esserci, non essere presente, altrimenti viene compromessa, ecco, la vita stessa dell'uomo. questo è un po', diciamo così, il collegamento anche che c'è tra l'ultima enciclica sociale di Benedetto XVI e questa enciclica di Paolo VI. Chiaramente tra il 2009, nell'epoca in cui Paolo VI scrisse la Populorum Progressio, qualcosa è cambiato, ma quando Paolo VI decise di parlare di sviluppo, in che contesto si trovava? Cosa lo ha spinto a parlare proprio di progresso? Sì, ecco, la Populorum Progressio è stata scritta nel 1967, anche questa enciclica, dicevamo l'altra volta, la Pacem in Terris, no? Rompe lo schema degli anniversari della Rerum Novarum, e Paolo VI intende affrontare per la prima volta, ecco, proprio la questione dello sviluppo inteso in senso globale. Lui aveva di fronte lo scenario in particolare della decolonizzazione, cioè, ecco, emergeva la condizione, la situazione di intere regioni nel mondo, quelle che poi venivano chiamate appunto del terzo mondo, che erano state caratterizzate dai regimi coloniali dell'Occidente, che un po' alla volta ritrovavano la libertà e che però evidentemente si ritrovavano in condizioni molto particolari dal punto di vista proprio dello sviluppo economico, dei diritti, dell'istruzione, di un sistema anche appunto sanitario, quindi tutta una serie di problemi che emergono visibilmente agli occhi del mondo occidentale e di cui la Chiesa evidentemente, sempre per quella logica per cui la Chiesa si pone a servizio, ecco, del mondo, non può non considerare. Quindi diremo che Populorum Progressio è proprio l'enciclica sullo sviluppo dei popoli. Benedetto XVI definisce la Populorum Progressio la Rerum Novarum dei tempi moderni. Cosa vuol dire? Come la Rerum Novarum fu una tappa decisiva nel pensiero della Chiesa perché affrontò una questione fondamentale, cioè quella operaia, quella dell'economia, del lavoro, questa enciclica è determinante perché apre lo scenario sulle questioni globali, potremmo dire così. Ci fermiamo qualche istante per una breve pausa e ci ritroveremo più tardi con Don Marco Cagol per questa terza puntata de Il Bene di Tutti, Parliamone. Il Bene di Tutti, Parliamone, rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati per questa terza puntata del Bene di Tutti, Parliamone. Sono Andrea Cantone e stiamo affrontando la storia della dottrina sociale della Chiesa con Don Marco Cagol. A un certo punto, quindi, la Chiesa si accorge che il mondo è ben più vasto di quello che si pensava, per cui la dottrina sociale della Chiesa affronta il tema della mondialità, in primo luogo anche con la presenza vera della Chiesa nei vari angoli del mondo grazie alle missioni. Come la dottrina sociale cosa porta in questo caso? Ah, ecco, qui si può introdurre un aspetto molto importante della dottrina sociale della Chiesa, cioè la missione dei cristiani, quella rispondere da parte dei cristiani al mandato di Gesù, andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo, non è mai stata solo un'azione che ha inteso portare la parola nel senso dell'annuncio del Vangelo e quindi una dimensione più strettamente religiosa, ecco, spirituale, ma ha sempre portato con sé anche la promozione umana. La dottrina sociale della Chiesa è uno strumento non solo di evangelizzazione, ma anche di promozione umana, nel senso che essere cristiani, portare il Vangelo nel mondo, significa anche creare quegli strumenti che in qualche modo promuovano la dignità delle persone. Quindi un missionario non può annunciare il Vangelo e non aiutare le persone a trovare l'acqua, a essere istruite, a avere la possibilità di curarsi. Per cui accanto cioè nelle missioni cristiane, cattoliche, noi abbiamo sempre una grande, diciamo così, azione di promozione umana, anche di costruzione di relazioni, di reti sociali che promuovano appunto la dignità delle persone. Ecco, Vangelo e vita sono assolutamente insieme, ecco, e noi vediamo quindi come la missionarietà cristiana si è sempre espressa anche in grandi opere sociali. Nei rapporti della Chiesa con il Terzo Mondo c'è stata a volte qualche incomprensione. Ricordiamo quando Giovanni Paolo II scese dall'aereo in un paese dell'America del Sud, e appena dopo aver baciato la terra prese a parole un sacerdote esponente della famosa teologia della liberazione. Perché la teologia della liberazione è incompatibile con l'insegnamento della Chiesa, in particolare con la sua dottrina sociale? Ma allora, intanto non è che la teologia della liberazione tout court, cioè complessivamente, sia incompatibile. Qual è stata la preoccupazione fondamentale di Giovanni Paolo II nei confronti della teologia della liberazione? La preoccupazione è stata quella di che la teologia della liberazione in qualche modo riducesse a messaggio sociale il messaggio evangelico. La forza, la carica di liberazione sociale che viene dal Vangelo non può essere disgiunta anche dal suo annuncio strettamente religioso. La teologia della liberazione, in alcune sue, diciamo così, espressioni, aveva quasi ridotto, tendeva, o meglio, questa era la preoccupazione di Giovanni Paolo II, ecco come lui la vedeva, tendeva a vedere le verità della fede semplicemente come dei simboli dai quali prendere forza e da tradurre immediatamente e esaustivamente in fatti sociali, in fatti di liberazione sociale, quindi dalla povertà, eccetera. Il Vangelo ha dentro questa carica, ma le verità della fede che il Vangelo contiene non sono solo dei simboli, sono delle verità reali. Questa è stata la grande preoccupazione. Giovanni Paolo II veniva da un contesto dove l'ateismo e il materialismo, no, avevano compresso le verità religiose e avevano dichiarato la religione oppio dei popoli in nome di una emancipazione sociale delle classi povere, delle classi operaie, no? Questa era la dottrina, diciamo così, di ispirazione marxista. E lui aveva paura che la teologia della liberazione, diciamo così, in maniera inconsapevole seguisse questo errore, cioè riducesse le verità della fede a simboli, a miti, che servivano per, appunto, il riscatto sociale. La sua era una preoccupazione di una riduzione del messaggio cristiano a un suo aspetto, e allora in questo senso ha condannato alcune punte molto anche avanzate della teologia della liberazione, che però in alcuni suoi altri filoni invece aveva compreso esattamente la carica liberatrice del Vangelo anche dal punto di vista della società e delle dinamiche delle relazioni sociali ed economiche. Al termine di queste tre puntate introduttive che ci hanno dato i mezzi per affrontare la dottrina sociale della Chiesa e per applicarla in vari casi che vedremo nei prossimi mesi, possiamo provare a definirla, a rinchiuderla dentro una definizione, questa dottrina sociale della Chiesa? Ci hanno provato in tanti, ci proviamo anche noi? Allora, te ne do tre di definizioni. Allora, una è quella proprio dell'ultima enciclica, la Caritas in Veritate, al numero 5, Benedetto XVI definisce così, dice così: la dottrina sociale della Chiesa è Caritas in Veritate in re sociali, cioè annuncio della verità dell'amore di Cristo nella società. Era quello che dicevo nella prima puntata, un grande atto d'amore da parte della Chiesa, da parte dei cristiani, nei confronti della società. È l'annuncio che Cristo ama la società, che il suo amore è trasformante, liberante e può anche dare forma ai rapporti sociali. Paolo VI, in una enciclica, che in realtà non è proprio un'enciclica, ma non entriamo nelle questioni tecniche, ma comunque entra nel novero delle encicliche sociali, cioè la 80ª Adveniens, dà una definizione indiretta dicendo che la dottrina sociale della Chiesa contiene al suo interno principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione. Quindi nella dottrina sociale della Chiesa noi troviamo questo: principi di riflessione, criteri di giudizio, direttive di azione. Questo ci fa comprendere anche che cosa un cristiano ci trova dentro nella dottrina sociale. Non trova un sistema compiuto, cioè una dottrina politica, una teoria politica economica, ma trova dei principi, dei criteri con cui valutare le sue azioni e anche qualche proposta che tende alla concretizzazione, come concretizzare anche questi principi e questi criteri. E infine, ecco, sempre Giovanni Paolo II, nella Sollicitudo Rei Socialis, ci dice che la dottrina sociale della Chiesa è una sorta di corpus dottrinale che si articola man mano che la Chiesa, nella pienezza della parola rivelata da Cristo Gesù e con l'assistenza dello Spirito Santo, va leggendo gli avvenimenti mentre si svolgono nel corso della storia. Essa cerca così di guidare gli uomini a rispondere, anche con l'ausilio della riflessione razionale delle scienze umane, alla loro vocazione di costruttori responsabili della società terrena. E Giovanni Paolo II dirà in questa enciclica che la dottrina sociale della Chiesa non va considerata appunto una teoria economica e sociale, una terza via tra il comunismo e il capitalismo, ma una vera e propria teologia, una teologia morale, morale sociale. Io aggiungo anche una teologia sociale, cioè uno sguardo teologico sulla società. Sembrano parole difficili, ma in realtà dicono esattamente qual è il punto fondamentale con cui guardare la dottrina sociale, che cosa ci troviamo dentro. Ecco, troviamo appunto dei principi di riflessione, dei criteri di giudizio, delle direttive di azione, e troviamo come si può esplicitare il comandamento dell'amore nella costruzione dei rapporti sociali. Ringraziamo Don Marco Cagol che ci ha aiutato a fare questi primi passi in questo nuovo cammino che ci porterà nei mesi a scandagliare un po' tutta la vita sociale, la vita economica e la vita politica. Grazie a te, grazie agli ascoltatori. Ricordo che giovedì 9 febbraio alle ore 18 presso il monastero di Santa Giustina si terrà l'incontro Spiritualità per un'etica civile con il teologo Don Carlo Molari, un incontro nell'ambito del ciclo di incontri sull'etica civile promosso dalla Fondazione Lanza e dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Ricordo i nostri recapiti, mandateci pure mail per segnalazioni, suggerimenti o critiche a redazione@bluradioveneto.it, mentre per ascoltare i podcast di tutte le nostre puntate potete visitare il sito Blu Radio Veneto oppure il sito della Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Ci sentiamo la settimana prossima e vi ringraziamo dell'ascolto. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.